ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Diceva Giovanni Falcone che il primo a chiamare dopo un attentato era sempre chi l'aveva voluto, e lui l'aveva ripetuto pure dopo i fatti della Daura. Raccontano oggi i magistrati, i suoi eredi, che i più esposti nelle manifestazioni antimafia sono spesso proprio quelli che hanno qualcosa da nascondere o da farsi perdonare. Mafia e antimafia, storie di battaglie, di vittorie e pure di feroci polemiche, pronte a riaprirsi ad ogni occasione e già riesplose ora che nel giro di poche settimane due nomi considerati simbolo della lotta contro i clan calabresi sono stati travolti da indagini e da pesanti accuse. Da una parte un ex sindaco come Carolina Girasole, già primo cittadino di Isola Capo Rizzuto, dall'altra l'ex ideatrice del Movimento delle Donne di San Luca, Rosy Canale. Due storie molto diverse, ma con molti punti in comune. Entrambe erano considerate due paladine della lotta all'andrangheta. Entrambe le storie ruotano intorno a beni confiscati. Entrambe si consumano in una terra come la Calabria, tormentata e avvelenata, dove sempre più difficile è il confine tra il bene e il male. Al di là allora delle vicende specifiche, per la Girasole un'indagine su presunti favori alla Cosca Arena, per la Canale l'accusa di aver speso in vestiti e viaggi i soldi dell'antimafia, si ripropone ancora una volta la questione del valore dei simboli di certe battaglie, delle conseguenze di certe vicende, delle difficoltà di certe terre, dove l'unica regola sicura è sempre agire secondo la propria coscienza, dice ora dispiaciuta Maria Carmela Lanzetta, già primo cittadino di Monasterace in Calabria, lei che in più occasioni è stata affiancata pure a Carolina Girasole e premiata per il loro impegno antimafia. Innanzitutto la giusta divisione dei due casi. Sì, io non conosco Rosy Canale, ho conosciuto in alcune occasioni ufficiali Carolina Girasole, spero soltanto che lei possa trovare il modo, le prove, che riesca a fare assoluta chiarezza, perché altrimenti restiamo un po' sconvolti. Però voglio dire una cosa, non è che se c'è un farmacista che non è onesto, tutti i farmacisti non sono onesti. Certo. Non c'è che se c'è un ingegnere che ruba, tutti gli ingegneri rubano. Oppure un giornalista scorretto, tutti i giornalisti. È proprio questo forse il rischio che vicende anche di questo tipo possono in qualche modo provocare, cioè che quando in qualche modo viene fuori che diciamo anche quelli che venivano considerati persone impegnate contro i clan, quindi in nome della legalità, sembrano aver tradito quello stesso principio, il rischio è proprio questo. Aspettiamo, no? Diciamo che per Carolina Girasole aspettiamo che emergano tutti i fatti, perché va rispettato moltissimo il lavoro dei magistrati, però va rispettato anche quello che dice la difesa e che soprattutto riesce magari a portare la difesa, quindi io dico soltanto con molta normalità aspettiamo. Il fatto della Canale è un fatto, mi sembra, di ordinaria e bassa corruzione, non so come chiamarlo, insomma, veramente di quelle cose che lasciano un po' così, che dice ma no, perché così in basso, no? Allora, qual è il dispiacere? È quello che ho detto subito. Il dispiacere è che il progetto era valido. Il progetto a San Luca era valido, ce n'è molto molto bisogno a San Luca di progetti come quelli, quindi è chiaro che un caso come quello tende a ridurre la fiducia, però io dico dobbiamo reagire e bisogna seguire pure quello che ha detto il procuratore capo di Reggio Calabria, che tutte le espressioni e tutto l'insegnamento per la lotta contro le mafie, ma soprattutto all'educazione contro le mafie, bisogna crederci, vuol dire che bisogna stare ancora più attenti, bisogna magari approfondire la conoscenza delle varie situazioni, ma bisogna andare avanti. Ecco, ma queste vicende confermano ancora una volta la complessità, la difficoltà di un territorio come la Calabria. Vuol dire che è particolarmente difficile e bisogna evidentemente andare con maggiore rigore e con i piedi di piombo. Un territorio dove è talmente intrecciato il bene e il male, il lecito e l'illecito, che spessissimo lascia un po'. Io provo delle difficoltà proprio a trovare la parola giusta, nel senso che si lascia un po' confusi prima di arrivare a capire per bene, e chi lo voglia, con estremo rigore da che parte stare, perché evidentemente c'è un intrico tale di lecito e di illecito, di buono e di cattivo, che insomma rende il tutto un cammino contorto, un cammino difficile. Allora a maggior ragione necessiti creare degli organismi, a maggior ragione bisogna sostenere quelle associazioni che vanno nelle scuole, che parlano con i ragazzi, e quelle commissioni che magari attivino un centro studi che serve per sensibilizzare i cittadini. Ad esempio, io vedrei molto nella commissione antimafia una sezione che si occupi di creare un centro studi per la sensibilizzazione dei cittadini e soprattutto degli studenti. Aspettare e non giudicare. Nei giorni della caduta dei simboli in Calabria è questa l'indicazione più ricorrente nello sconcerto generale, qui dove per decenni il silenzio ha fatto da sottofondo costante agli affari dell''ndrangheta e dove all'improvviso invece, dopo l'omicidio nel seggio del vicepresidente Fortugno, dopo il clamore di fatti come la strage di Duisburg, maturata nella faida di San Luca appunto, dopo le minacce ai magistrati di Reggio Calabria, dopo una stagione fitta di arresti e inchieste, all'improvviso la attenzione si è accesa pure su questa regione, a lungo avvolta da un cono d'ombra. E insieme all'attenzione dei media è aumentato il fermento pure della parte più sana della società civile, col rischio però, come avverte il procuratore aggiunto Nicola Gratteri, che ha firmato l'indagine sul Rosi Canale, il rischio che si costruiscano paladini antimafia senza una storia autentica. E sono più gravi le conseguenze ora della caduta di certi simboli o i meriti comunque di aver rotto un silenzio fitto scandendo un comunque slogan antimafia? Contano i fatti, risponde sicura un'altra sindachessa, Anna Maria Cardamone, primo cittadino di Decollatura. Grande dolore, le generazioni saranno solo esclusivamente confuse perché non sanno più dove sta il lecito e l'illecito. Io sono però convinta che gli esempi migliori si danno sempre con il fare quotidiano. In ogni momento la migliore occasione è dire va fatto per il bene pubblico e non perché si deve combattere qualcosa. Lei è il sindaco di Decollatura, ma anche in altri comuni calabresi, diciamo, sì. Anche fare l'amministrazione ordinaria della quotidiana, appunto, del bene pubblico non è così semplice, a volte appunto anche lì si trovano delle realtà che non sono ben delineate tra ciò che è chiaro e ciò che non è e ciò che è scuro, cioè... Sì. Questo è sicuramente vero. Ma ognuno di noi nel momento in cui fa sicuramente ci mette sempre del buono. Il fatto poi che purtroppo vengano fuori queste situazioni, purtroppo secondo me rafforzano le persone che stanno contro la buona amministrazione. Quali sono le ricadute? Cioè lei diceva le nuove generazioni che non capiscono più dove sta il bene e dove sta il male. Cioè se è così difficile, diciamo, tirar fuori da una certa situazione anche proprio di stagnazione e di adagiamento rispetto alle regole mafiose di un territorio come molte zone della Calabria, il fatto che poi vengano fuori notizie al di là di appunto dei fatti specifici che poi ciascuno ha una propria storia, che però lambiscono, gettano ombre anche su quelli che sembravano dei personaggi simbolo dell'antimafia, in qualche modo crea quantomeno dello scoramento, della ulteriore confusione. Non solo confusione ma anche dolore, perché ripeto, non si riesce a comprendere se si sta facendo bene o se si sta facendo male in alcuni momenti. Veramente è così sottile il filo che ecco perché io alcune volte mi chiudo in me stessa e dico spero solo di fare per tutti e comunque ci metto tutto, veramente il mio sapere, la mia professionalità per rispettare le regole della buona amministrazione. E questo è valido dappertutto, ma la cronaca dimostra che in una realtà come la Calabria è estremamente complicato, perché appunto sembra essere davvero tutto in qualche modo troppo limitrofo, troppo vicino, troppo confuso in alcune occasioni. È molto sottile alcune volte il filo, però bisogna provarci a farlo, al di là purtroppo di queste cronache vere o non vere, perché io non sto qui a giudicare, queste notizie poi fanno in modo che rafforzano quelle persone o quella frangia di persone che ti vogliono fare sbagliare o che facilmente ti buttano fango solo perché sei un amministratore. Mafia e antimafia, storia di battaglie difficili, di feroci polemiche eppure di finti simboli o anche di clamorosi errori giudiziari come l'assoluzione del super poliziotto Vittorio Pisani, da cui ripartiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. Questa sentenza ha rappresentato per tutti i cittadini che credono, cioè nella legalità, hanno adesso la possibilità di avere di nuovo dalla loro parte un simbolo della lotta alla criminalità. Assolve Pisani Vittorio dal reato ascrittogli al capo Z per non aver commesso il fatto e dagli altri reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. Assolto perché il fatto non sussiste. Cadono così col verdetto di una corte e con una lacrima, ripresa dalle telecamere presenti in aula, le accuse mosse a Vittorio Pisani, il super poliziotto, già capo della squadra mobile di Napoli, passato dalla cattura di pericolosi boss all'accusa di favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio. Un terremoto finito con un'assoluzione che ridà, per dirla con le parole del suo avvocato, un simbolo alla battaglia dell'antimafia. Una notizia questa arrivata pochi giorni dopo che figure diverse, ma comunque considerate paladine della lotta ai clan come Carolina Girasole e Rosy Canale, in un'altra terra difficile come la Calabria, erano state travolte da accuse pesanti. E le conseguenze di queste vicende, allora, sono la disillusione generale? La convinzione che tutti sono uguali? O c'è pure il rischio, denunciato da Nicola Gratteri, che si ergano a testimonial di legalità volti che invece non sono del tutto in buona fede? Di sicuro, soffermandoci sulla Calabria, che nella lotta alla mafia e anche nel percorso dell'antimafia è più indietro rispetto alle altre regioni, molto spesso faide interne, tensioni e risse hanno preso il posto del silenzio generalizzato che dominava incontrastato. Gli scambi di accuse spesso ruotano intorno ad ambizioni di visibilità, alla spartizione dei fondi, alla divisione anche in questo incordate e contese tra chi è più antimafia dell'altro, tra chi la ritiene una moda e chi invece sia convinto che un impegno pure pubblico contro le cosche sia invece oltremodo necessario in una terra così. C'è chi allora considera l'antimafia solo una successione di vuoti proclami e chi invece le riconosce un valore concreto di risveglio civile. Anche per questo, ad esempio, a Lamezia Terme l'amministrazione ha appoggiato e voluto il Festival dei Libri contro le Mafie, Trame. E ora il sindaco dimissionario Gianni Speranza, davanti alle vicende che hanno travolto soprattutto l'ex primo cittadino di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, si sfoga sulla solitudine degli amministratori in questa terra difficile. Mi ricordo Sciascia, e Sciascia ci ha insegnato tante cose del Mezzogiorno, della mafia e della sua capacità di macchinazione anche. E ci possono essere delle macchinazioni che trascinano anche inchieste, indagini, in una terra in cui non c'è distinzione, in cui tutti sono in qualche modo contaminati dalla mafia, nessuno si può porre come argine o come resistenza alla penetrazione della mafia, no? Siamo tutti uguali, tutta la stessa cosa, tutta la stessa minestra, una marmellata. Il rischio è che tutti sembrino uguali in una terra di questo tipo, ma in realtà non è così. Io ne sono convinto, però le dico con sincerità e glielo dico sulla base della mia esperienza e lo dico sulla mia pelle. Guardi che non è facile, guardi che se uno cerca di fare semplicemente il proprio dovere e di essere se stesso e di non dire signor sì a tante insinuazioni, a tanti ricatti, a tanti ammiccamenti, a tante persone che non solo sono insospettabili ma sono stimate, riverite e che sono pezzi della borghesia importante, del mondo delle pressioni, dell'imprenditoria, della politica. Se uno dice di no, sei sempre infangato, diffamato, calunniato. La solitudine invece è un grande rischio che abbiamo. Ecco, sindaco, lei ritiene che, ecco, al di là delle vicende specifiche, ritiene che comunque anche le tante inchieste che hanno toccato a vario tipo molti amministratori fa sì che diciamo le persone per bene cerchino anche di stare il più possibile lontane anche dall'amministrazione per i rischi che anche che tutto questo comporta, oppure invece è certo, proprio la sicuramente sì, scatta la cosa? Sicuramente sì, sicuramente sì, non è, è questo il punto, è uno dei punti, insomma, no? Drammatici della situazione. Io stesso, guardi, se tornassi indietro, sicuramente rifarei la prima candidatura quando il mio comune è stato, veniva da uno scioglimento per infiltrazione e condizionamenti mafiosi, con 30 mesi di commissariamento. Ma la seconda volta forse non mi ricandiderei. O c'è un ragionamento nel quale fare qualcosa di buono qui serve all'Italia, serve alle forze migliori di questo paese, ma se ognuno di noi è solo, una persona può anche riflettere sull'utilità, sul senso che hanno, no? Le sue scelte e le sue azioni. Perché poi lei dice è stato, come dire, travolto da una serie di polemiche che l'hanno portata a decidere di fare un passo indietro e dimettersi. Sì, se non ho la maggioranza dei consiglieri, se tutte e due le volte io sono sindaco eletto dai cittadini, che ringrazio, ma i consiglieri comunali non sono in maggioranza con me e sul mio programma, ma sono su altri programmi e su altri scopi, lei capisce che è terribile. Durante la sua guida di Lamezia Terme ha appoggiato fortemente una manifestazione che si tiene appunto a Lamezia, che noi come Radio 24 seguiamo dall'origine, che è stato il festival, che è il festival Trame sui libri di mafia, un festival appunto con un messaggio. Che è una delle cose più belle che siamo riusciti a fare. Senza alcun dubbio, Ecco, ecco, quindi in qualche modo anche voi vi siete fortemente esposti sul tema della lotta alla mafia. In tutte queste polemiche che si sono aperte in queste ultime settimane dopo le inchieste che hanno coinvolto soprattutto la Girasole e Rosi Canale, si è aperto anche un dibattito di chi dice, vabbè, al di là delle vicende specifiche delle singole persone, comunque diciamo c'è un merito che è quello di aver diciamo rotto un silenzio e portato anche, un certo, diciamo, movimento di legalità. Secondo lei, lei che in quel territorio ci vive, questo aspetto finisce con l'essere prevalente o invece quando ci sono queste indagini prevale, diciamo, la disillusione rispetto a delle persone o a dei nomi che erano diventati dei simboli e che poi finiscono con l'essere loro stessi travolti dalle indagini? Quello che si vuole è in fondo il silenzio, quello che si vuole è l'immodificabilità della situazione, no? Il caso parte, c'è la criminalizzazione, allora c'è tutto uguale, ma che caspita vuole il sindaco? Ma in fondo siamo tutti uguali. E io ho detto questo, però le voglio dire una cosa, io lo vedo anche con me adesso, Trame è il professionismo dell'antimafia, Trame è la passerella, Trame è questo, Trame è una bella cosa che ha significato per 3 anni che le persone uscivano la sera e incontravano, anziché le banalità televisive, incontravano magistrati, giornalisti, scrittori di libri che avevano scritto cose serie e si parlava di cose serie. E il comune di Lamezia Terme non solo ha fatto Trame, ma ha fatto la delibera sugli appalti e sui subappalti e sui servizi del comune, che è diventata anche un buon punto di riferimento per tanti comuni italiani e dei municipi di Roma che l'hanno utilizzata di recente. Dopodiché anche io, in bocca a degli indemoniati e a delle persone che hanno usato il voto di scambio e hanno rapporti molto spesso di compiacenza con le cosche, vengo tacciato in ogni modo. E voi cosa pensate delle inchieste che coinvolgono anche i simboli antimafia? Se vi va, scrivetelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!